Il terzo anello. Ad alta voce. Anna Bonaiuto legge L'educazione sentimentale di Gustave Flaubert. Traduzione di Giovanni Rabomi. Stanco di tanta solitudine, Federico andò a cercare un suo ex compagno, certo Battista Martinon, e lo scovò in una pensione borghese di Rue Saint-Jacques che si dedicava alla procedura civile davanti a un fuoco di carbone. In faccia a lui, una donna vestita di tela rammendava dei calzini. Martinon era quel che si dice un gran bell'uomo, alto, florido, con lineamenti regolari e due occhi bluastri a fior di testa. In più, visto che suo padre, un grosso coltivatore, voleva che diventasse magistrato, cercava di darsi sin d'ora un'aria seria portando la barba a collare. La noia di Federico non aveva cause ragionevoli, tantomeno era possibile attribuirla a qualche disgrazia, e così Martinon non capì un bel niente del suo lagnarsi della vita. Lui, Martinon, andava all'università tutte le mattine, poi a passeggiare a Lussemburgo, di sera al caffè, ed era, con i suoi 1500 franchi all'anno e l'amore di un'operaia, perfettamente felice. «Bella felicità», pensava Federico. All'università aveva fatto un'altra conoscenza, quella del giovane De Sisi, rampollo di famiglia illustre, che pareva, dalla gentilezza dei modi, una signorina. Il signor De Sisi si occupava di disegno e coltivava la passione del gotico. Più di una volta erano andati assieme ad ammirare la Sainte-Chapelle e Notre-Dame. La distinzione del patrizio dissimulava peraltro un'intelligenza di rara modestia. Con nessuno, insomma, era possibile confidarsi. Federico aspettava sempre l'invito dei D'Ambreuse. A Capodanno si fece vivo con un biglietto da visita, ma non ebbe risposta. Era tornato ancora all'Art Industriel, vi andò una terza volta e vide finalmente Arnoux. Il mercante gesticolava in mezzo a cinque o sei persone e rispose appena al suo saluto. Federico ci restò male, ma non per questo smise di adoperarsi per arrivare fino a lei. Poi, preso da rimorso, ricominciò a frequentare i corsi, ma ne ignorava completamente le materie. E le prime difficoltà lo disorientarono. A questo punto scrisse a Delorier, supplicandolo di venire a dividere con lui la stanza. Si sarebbero arrangiati coi 2000 franchi del suo assegno, qualsiasi cosa pur di sfuggire a un'esistenza ormai insopportabile. Delorier non era ancora in grado di lasciare il suo posto. Gli raccomandava di distrarsi e di frequentare Senecal. Senecal era un insegnante privato di matematica. Intelligenza quadrata, repubblicano, un futuro Saint-Just, garantiva Delorier. Federico s'arrampicò 3 volte fino al suo 5° piano, ma non lo trovò mai, non ci andò più. Decise di divertirsi. Andò ai balli dell'Opera. Quell'allegria scatenata la ghiacciava già sulla soglia. In più, lo inibiva il timore di qualche amarezza pecuniaria, nella convinzione che cenare in compagnia di una mascherina comportasse di per sé delle spese notevoli, fosse pure una grossa avventura. Eppure gli sembrava che qualcuna avrebbe dovuto amarlo. A volte si svegliava col cuore pieno di speranza, si vestiva con ogni cura come per un appuntamento e faceva dei lunghissimi giri per Parigi. A ogni donna che camminava davanti a lui o gli veniva incontro sussultava «Eccola!». Era una nuova delusione ogni volta. L'immagine di Madame Arnoux sfrenava i suoi desideri. Forse sarebbe apparsa sulla sua strada e vagheggiava per abbordarla di poterla salvare da chissà quale complicazione del caso o fantastico periglio. Così svanivano i giorni, nella ripetizione della noia e delle abitudini. Una sera, al teatro del Palais Royal, Federico scorse in un palco di proscenio Arnoux con una donna. Lei. Lo schermo di taffetà verde, teso sopra il bordo del palco, nascondeva in parte il suo volto. Finalmente s'alzò il sipario. Lo schermo fu abbassato. Era una donna alta, sulla trentina, sciupata, con delle grosse labbra che scoprivano nel riso una dentatura splendida. Pareva in confidenza con Arnoux, al quale assestava, conversando, dei colpetti di ventaglio sulle dita. Poi una ragazza bionda, con le palpebre un po' rosse, come se avesse appena finito di piangere, venne a sedersi tra i due. Da quel momento Arnoux, Chinandosi a mezzo verso di lei, non smise un attimo di sussurrarle parole che lei ascoltava senza rispondere. Federico si sforzava di intuire che genere di donne fossero quelle due, modeste nei loro vestiti scuri a scollo piatto, semplicissimi. Finito lo spettacolo, si precipitò nei corridoi gremiti. Davanti a lui, Arnoux scendeva passo a passo la scalinata, dando il braccio alle due donne. Di colpo fu illuminato dalla fiamma di una lampada. Il suo cappello era fasciato a lutto. Lei poteva essere morta? Quel pensiero gettò Federico in un tale tormento da farlo precipitare il mattino dopo all'Art Industriel. Chiesta e pagata in tutta fretta una delle stampe esposte in vetrina, chiese al commesso come stava il signor Arnoux. «Oh, benissimo!» rispose il commesso. Impallidendo, Federico aggiunse «E la signora?» «La signora anche!» Federico dimenticò la stampa in bottega. L'inverno finiva. In primavera Federico era meno triste. Si mise a preparare un esame e, dopo averlo superato in modo non molto brillante, partì per Nogent. Non andò a trovare l'amico Delorier per non destare le critiche di sua madre. Tornato a Parigi, lasciò la sua stanza, prese in affitto un appartamento di due locali sul Quai Napoléon e lo fece arredare. Aveva smesso ormai di sperare in un invito dai D'Ambrés e la sua grande passione per Madame Arnoux cominciava ad affievolirsi. Una mattina di dicembre, mentre andava a lezione di procedura, Federico ebbe l'impressione che in Rue Saint-Jacques ci fosse più animazione del solito. Gli studenti uscivano a precipizio dai caffè o si chiamavano di casa in casa dalle finestre spalancate. I negozianti erano usciti sui marciapiedi e guardavano inquieti. Venivano giù saracinesche. Arrivato in Rue Soufflot, vide che molta gente s'era raccolta intorno al Pantheon. Tutti quanti avevano un'aria tra compresa e sbalordita. Chiaro che si stava aspettando qualcosa, era come se tutti avessero una domanda sulla punta della lingua. Federico era venuto a trovarsi vicino a un giovane biondo, di bell'aspetto, che portava baffi e barbetta come un elegantone dei tempi di Luigi XIII. Si rivolse a lui chiedendogli quale fosse la causa del disordine. «Io non ne so niente», ribatté quello scoppiando a ridere. «E loro nemmeno!» «Adesso si usa così. Che razza di commedia!» Le petizioni per la riforma elettorale sottoposte alla firma della Guardia Nazionale, il censimento ordinato da Humann e qualche altro avvenimento ancora avevano provocato a Parigi, da 6 mesi in qua, un susseguirsi di misteriose adunanze, così fitto che i giornali non ne parlavano neanche più. Federico si sentì toccare alla spalla. Si voltò. Era Martinon, incredibilmente pallido. «E così...» disse con un gran sospiro, ancora una sommossa. Temeva d'essere compromesso, era tutto un lamento. Più che altro lo tenevano in ansia certi uomini in camiciotto, affiliati, a suo dire, a qualche società segreta. «Perché? Credete che esistano le società segrete?» intervenne il giovane baffuto. «Ma sono favole inventate dal governo per spaventare i borghesi!» Martinon lo supplicò di parlare piano. «La polizia!» «Ah, lei crede? La polizia? E chi le dice, signore, che non sia io stesso una delle loro spie?» E lo fissò con un cipiglio tale che Martinon, spaventatissimo, ci mise un po' a capire lo scherzo. La folla li premeva. Si erano dovuti rifugiare tutti e tre sui gradini della piccola scala che portava attraverso un corridoio all'anfiteatro nuovo. Dal fondo della piazza partì qualche grido. «Abbasso Guizot! Abbasso Pichard! Abbasso i venduti! Abbasso Luigi Filippo!» Qualcuno intonava la Marsigliese. Altre voci proponevano d'andare sotto le finestre di Béranger, di Lafitte, di Chateaubriand, di Voltaire, esclamò il giovane dai baffi biondi. Le guardie, aggirandosi a stento tra la folla, cercavano di far la voce dolce. «Via, signori, via, circolare!» Qualcuno gridò «Abbasso gli assassini!» Dopo gli incidenti di settembre era un'ingiuria usuale. Tutti la ripresero urlando. Crebbe lo schiamazzo, si infittirono i fischi contro i custodi dell'ordine pubblico che cominciavano a impallidire. Uno perse la testa e quando un ragazzino gli si fece, ridendo di sfida, addirittura sotto il naso, gli assestò uno spintone così brusco da farlo ricadere lungo disteso a 5 passi di distanza davanti alla bottega del vinaio. La folla arretrò di colpo. Ma quasi nello stesso istante anche la guardia stramazzò a terra sotto il pugno di una specie di Ercole la cui capigliatura saltava fuori rigida come stoppa da un berretto di tela cerata. Il tipo, che era fermo da qualche minuto all'angolo di Rue Saint-Jacques, aveva mollato in un lampo lo scatolone che portava per slanciarsi sulla guardia e ora, tenendola inchiodata a terra sotto di lui, gli lavorava il viso a forza di pugni. Accorsero le altre guardie. Il tremendo garzone era così forte che ce ne vollero più di 4 per domarlo. 2 lo tiravano per il bavero, altri 2 per le braccia, un 1/5 gli appioppava delle ginocchiate nelle reni. Così facendo, non smettevano di dargli del brigante, dell'assassino, del rivoltoso. Col petto nudo, i vestiti a brandelli, lui si protestava innocente. Non aveva potuto, a sangue freddo, veder picchiare un ragazzo. «Mi chiamo Dussardier. Sto dai fratelli Valinsart, moda e ricami in Rue de Cléry. Dov'è finito il mio scatolone? Voglio il mio scatolone!» E ripeteva «Dussardier, Rue de Cléry, lo scatolone!» Si calmò alla fine e con aria stoica si lasciò condurre verso il posto di guardia di Rue de Cartes. Un fiotto di gente gli andò dietro. Federico e il giovane baffuto lo seguivano da presso, pieni d'ammirazione per lui e di disgusto per le violenze del potere. Incrociando il gruppo, qualche passante squadrava Dussardier e s'abbandonava ad alta voce a commenti oltraggiosi. Una vecchia, affacciandosi a una porta, gli diede persino del ladro di pane. Un'ingiustizia così palese accrebbe l'irritazione dei due amici. Giunsero alla fine davanti al posto di guardia. Non c'era più che una ventina di persone. La vista dei soldati bastò a disperderle. Federico e il suo compagno chiesero arditamente il rilascio dell'uomo testé imprigionato. Il funzionario li minacciò, se insistevano, di cacciar dentro anche loro. Chiesero del comandante e declinarono le loro generalità, precisando che erano studenti in legge e affermando che il prigioniero era loro condiscepolo. Furono fatti entrare in una stanza coi muri a calce, affumicati, dove non c'era nient'altro all'infuori di quattro panche. Sul fondo si schiuse uno sportello. Apparve la larga faccia di Dussardier, che coi capelli in disordine, gli occhietti leali e il naso un po' quadrato in punta, ricordava confusamente la fisionomia bonaria di un cane. «Non ci riconosci?» lo interrogò Isonet. Tale era il nome del giovane baffuto. «Ma io...» balbettava Dussardier. «Dai, non fare il cretino!» lo interruppe l'altro. «Lo sanno benissimo che sei uno studente di legge, come noi!» A dispetto delle loro strizzate d'occhio, Dussardier non si raccapezzava. Parve riflettere, poi tutto a un tratto: «Hanno trovato il mio scatolone!» Federico, scoraggiato, alzò gli occhi al cielo e Isonet, pronto: «Ah, ah sì, la tua scatola, quella dove tieni gli appunti delle lezioni! Certo, certo, sta tranquillo!» Raddoppiarono le smorfie. Alla fine Dussardier si rese conto che erano venuti per aiutarlo e s'azzittì per paura di comprometterli. E poi provava un certo imbarazzo nel vedersi elevato al rango sociale di studente uguale a quei giovani che avevano le mani così bianche. «Dobbiamo dir qualcosa a qualcuno da parte tua?» gli chiese Federico. «No, no, grazie, a nessuno. Ma e i tuoi?» Il poveraccio abbassò la testa senza rispondere. Era bastardo. I due amici se ne stavano lì, sbalorditi del suo silenzio. «Senti, se gli dessimo dei sigari?» suggerì a bassa voce Isonet, facendo il gesto di tirarne fuori. Federico aveva già posato sul bordo inferiore dello sportello un portasigari pieno. «Su, prendi!» «Addio! Coraggio!» Dussardier si gettò sulle due mani che gli venivano tese. Stringendole freneticamente, ripeteva fra i singhiozzi: «Ma come? Per me? Per me?» I due amici si sottrassero alla sua riconoscenza e, usciti, andarono a far colazione da Tabouret di fronte a Lussemburgo. Senza smettere di affondare il coltello in una bistecca, Isonet rivelò al compagno che lavorava per alcuni giornali di mode e faceva della pubblicità per l'arte industrielle. «Da Jacques Arnoux?» disse Federico. «Sì, lo conosci?» «Sì, no... cioè, l'ho visto, l'ho conosciuto.» Con aria distratta chiese a Isonet se gli capitava di vedere anche la moglie. «Qualche volta», rispose il giovane artista. Federico non ebbe il coraggio di fare altre domande. Di colpo, quel tipo aveva preso un posto incommensurabile nella sua vita. Pagò il conto della colazione senza che l'altro accennasse alla minima protesta. La simpatia era reciproca. Si scambiarono gli indirizzi e Isonet invitò Federico ad accompagnarlo fino in Rue de Fleur. Per una settimana Federico aspettò che si facesse vivo. Non osava andare a casa sua per non avere l'aria di volersi far ricambiare la colazione, ma lo cercava in tutto il quartiere latino. Una sera lo incontrò e lo fece andare da lui sul Quai Napoléon. Fu una lunga chiacchierata. S'abbandonarono a confidenze. Federico chiese allo scrittorello se non poteva introdurlo da Arnoux. Era facile. Si misero d'accordo per il giorno dopo. Isonet disertò l'appuntamento. Ne disertò di seguito altri tre. Un sabato, verso le 4, comparve. Ma per sfruttare la carrozza, fece una fermata prima al Théâtre Français, dove ritirò un biglietto di loggione. Si fece accompagnare dal sarto, dalla pantalonaia, scriveva biglietti da lasciare qua e là nelle portinerie. Alla fine arrivarono in Boulevard Montmartre. Federico fu condotto attraverso la bottega su per una scaletta. Arnoux lo riconobbe nello specchio che aveva davanti allo scrittoio e, senza smettere di scrivere, gli strinse la mano da sopra la spalla. «Sempre bene?» disse il commerciante voltandosi verso Federico e, senza aspettare la risposta, chiese piano a Isonet: «Come diavolo si chiama il tuo amico?» Poi, con una voce normale, «Coraggio, si prenda un sigaro dalla scatola, là, sulle cartelle!» L'arte industrielle rappresentava, proprio nel centro di Parigi, un comodo luogo di ritrovo, una specie di terra di nessuno, dove le rivalità stavano in familiare contatto. Quel giorno c'erano Antenor Brève, il ritrattista dei re, Jules Burier, che cominciava a rendere popolari con i suoi disegni le guerre d'Algeria, Sombaz, il caricaturista, lo scultore Vourdat e altri ancora. Nessuno corrispondeva all'immagine che se ne sarebbe fatta lo studente. Avevano modi semplici, i discorsi che facevano erano discorsi qualsiasi. Tutti stavano lamentandosi di non guadagnare abbastanza, quando fece il suo ingresso un uomo di statura media, con la giacca a un solo bottone, gli occhi vivi e un po' spiritati. «Siete un bel branco di borghesi!» esclamò il nuovo arrivato. La porta accanto al divano si schiuse e una donna alta, sottile, entrò con movenze brusche che facevano tintinnare sul vestito nero di taffetà i ciondoli del suo orologio. Era la donna intravista l'estate prima al teatro del Palais Royal. Più d'uno la chiamava per nome e le stringeva la mano. Hussonnet era riuscito alla fine a strappare una cinquantina di franchi. Suonarono le 7 alla pendola, tutti si ritiravano. Federico accompagnò Pellerin in fondo al Faubourg Poissonnière e gli chiese il permesso di andare qualche volta a trovarlo. Il favore fu graziosamente accordato. Pellerin divorava tutti i trattati di estetica per scoprire l'autentica teoria del bello, convinto, una volta che l'avesse trovata, di poter creare dei capolavori. Arrivando di buon'ora nel suo studio, Federico lo sorprendeva nella sua grama branda celata dietro un frammento d'arazzo. Assiduo frequentatore dei teatri, Pellerin si coricava tardi. Una vecchia stracciata gli faceva i mestieri, mangiava all'osteria, non aveva amanti. Le sue cognizioni, messe insieme alla meglio, rendevano spassosi i suoi paradossi. Il suo odio contro la normalità borghese traboccava in sarcasmi di un grandioso lirismo. Per i maestri aveva una venerazione così profonda da elevarlo, a momenti, al loro livello. Ma perché non succedeva mai che parlasse di Madame Arnoux? Del marito una volta diceva che era un bravo uomo, un'altra che era un ciarlatano. Federico viveva nell'attesa delle sue confidenze. Un giorno, sfogliando una delle sue cartelle, trovò in un ritratto di Zingara qualche somiglianza con la Vatnaz e, poiché la persona lo interessava, chiese ragguagli sulla sua condizione. Era stata, credeva di sapere Pellerin, istitutrice in una città di provincia. Al presente dava delle lezioni e cercava di collaborare a qualche giornaletto. Dal suo modo di fare con Arnoux si poteva supporre, azzardò Federico, che fosse la sua amante. «Oh, ne ha di ben altre!» E il giovane, nascondendo il rossore che quel pensiero infame gli cacciava sul volto, aggiunse con cinismo. «Sua moglie lo ricambierà di sicuro!» «Niente affatto, è una donna per bene!» Federico provò rimorso e si fece vedere più assiduo al giornale. Le grandi lettere che formavano il nome di Arnoux sulla targa di marmo sopra la vetrina gli sembravano assolutamente particolari, gravi di significato come una scrittura sacra. Il largo marciapiede, in discesa in quel punto, gli facilitava il passo. La porta sembrava che girasse da sola e la maniglia, liscia al tatto, aveva la dolcezza, quasi l'intelligenza, di una mano insinuata nella sua.